español tu balcón. Suena, vuelto a volar mi pasión. Guarda, dintorno che felicità. Canta, ad ogni cuore ascolterà. Onerita, torna il sole in ogni casa, ogni rosa rifiorita, è ritornato amor. Onerita, la tua voce appassionata mi ridà tutta la vita e m'accarezza il cuore. Per sentir la tua canzone pur la rondine è venuta, s'è posata sul balcone per ascoltarti ancora. Torna il sole in ogni casa, ogni rosa è rifiorita, è ritornato amor. Casa, ogni rosa rifiorita, è ritornato amor. Oh, oh, oh, oh.